Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. I nuovi rialzi degli spread, con le preoccupazioni crescenti sui debiti pubblici, i dubbi sul futuro dell'euro, le parole di Barroso dopo il terremoto che ha colpito l'Italia, le parole di Mario Draghi sul rischio contagio nei paesi dell'Unione, il tasso di disoccupazione nell'eurozona che è salito nel mese di aprile, le diverse opinioni sulla linea politica della Germania, il monito all'Europa della Casa Bianca preoccupata per il contagio. Sono questi i principali argomenti della settimana al centro di questa puntata di Economia in Europa. Nella giornata di mercoledì 30 maggio lo spread fra BTP e Bund è tornato a superare i 470 punti base per la prima volta dal 17 gennaio. Il differenziale fra Madrid e Berlino intanto volava a nuovo massimo a 536 punti con il rendimento del titolo decennale spagnolo in rialzo al 6,6%. Nella stessa giornata il Tesoro italiano ha venduto BTP a 5-10 anni per complessivi 5 miliardi 740 milioni di euro, meno del target massimo di 6 miliardi e 250 milioni, e ha dovuto pagare rendimenti più alti a fronte di una domanda sostanzialmente stabile. Sul nuovo quinquennale il rendimento medio è salito al 5,66%, dal 4,86% di aprile. Sul 10 anni il tasso è salito al 6%, dal 5,84% precedente. Sebastiano Barisoni ha commentato questi dati con Angelo Drusiani, responsabile gestioni banca Albertini SIS. All'inizio è sembrata una cosa scioccante, cioè uno Stato che non riesce a trovare finanziatori per il suo debito in un'asta è uno Stato che è a un passo dalla bancarotta. In realtà non è andata esattamente così come poi abbiamo scoperto, però vorrei che lei ce lo confermasse. Cioè è stato il Tesoro a bloccare tutto il collocamento a un certo momento? Sì, di solito il Tesoro colloca solo quella quantità di titoli che ritiene necessaria, ma soprattutto che ritiene in linea con i rendimenti che vuol pagare, cioè col costo della raccolta che decide di pagare. Per cui a un certo punto, quando la domanda si attesta a livelli di prezzo eccessivamente bassi ai quali corrisponderebbe un livello di rendimento troppo alto, il Tesoro non attribuisce, non assegna quei titoli a chi li ha richiesti. Cioè c'è proprio una soglia sotto la quale il Tesoro non assegna i titoli. Tenga anche conto di questo aspetto, che a partire da lunedì prossimo il Tesoro propone una nuova tranche di titoli collegati all'inflazione italiana, cosiddetto BTP Italia, diverso dal precedente come scadenza e forse anche come cedola, questo verrà definito. Se avesse il successo che ha avuto il primo, ha raccolto 7 miliardi, sopperirebbe ampiamente alla minore domanda che c'è stata oggi, cui lei faceva riferimento. Si può quindi davvero escludere un problema Italia anche alla luce dei dati di quest'ultima asta? Gli analisti e i commentatori continuano a confrontarsi a questo proposito, guardando nel frattempo anche all'evolversi delle situazioni più critiche. Sentiamo il commento di Vladimir Biasia, docente alla Facoltà di Economia all'Università di Udine e partner di WB Advisor. Questo è un mercato estremamente vulnerabile e ha dei piedi di argilla. In realtà le ipotesi della prevalenza di un voto positivo a favore dello schieramento che era pro-euro, diciamo, in Grecia, aveva aperto una finestra reattiva sui mercati, positiva sui mercati, tale da poter quantomeno riequilibrare questo eccesso di venduto presente un po' sui listini, che è stata fortemente mitigata dai timori sulla Spagna. Quindi noi abbiamo da un lato speranze e dall'altro certezze. Speranze che la Grecia possa rivedere un po' il voto precedente e quindi ritornare sui suoi passi ed essere più pro-euro e quindi disponibile a seguire le durissime ricette imposte dalla Troica per ristrutturare il proprio debito, la propria situazione. Dall'altro invece abbiamo la Spagna che sta invece, come dire, approcciando un vero e proprio problema che parte dalle banche, e lì il problema è dato nella visione del mercato, nella percezione del mercato, è dato dalla forte bolla che si è formata sul mercato immobiliare, e il contenzioso potenziale è estremamente enorme. Il mercato è sensibile a questi numeri e quindi tende a prevenire, diciamo, notizie ancor più negative, facendo che cosa? Vendendo gli asset che ha, liquidando posizioni più che vendendo, diciamo. Quindi sono vere e proprie liquidazioni progressive di portafoglio che portano poi a delle situazioni di contagio anche nel nostro mercato, che al momento io ritengo tutto sommato abbastanza, come dire, abbastanza solido, ma non scevro da questo effetto di contagio che nel caso in cui la Spagna dovesse ulteriormente aggravarsi, necessariamente noi avremo già lo spread, lo misura questo effetto di contagio, e 460 punti base, l'abbiamo scritto recentemente nei nostri report, rappresentano una soglia di estrema attenzione. E sul fronte del mercato delle valute, lo stato di salute in cui versa attualmente il vecchio continente sembra pesare sempre di più sull'andamento dell'euro, che continua la sua discesa sul biglietto verde. Sentiamo a questo proposito il commento di Carlo Aloisio di Unicredit. Sicuramente c'è stata una forte accelerazione speculativa con la rottura di 1,30 fino all'area attuale intorno a 1,25 sul presupposto e sulle possibilità che la Grecia, come nei giorni scorsi si ventilava, possa uscire dall'euro. Peraltro un fattore molto, molto discutibile, perché nel trattato non è previsto, tant'è vero che da parte dell'Europa si continua a smentire questo fattore. Chiaro che di fronte poi a un'elezione, a un'eventuale così volontà greca diversa, creerà sicuramente delle problematiche. In parte ritengo che il mercato lo stia scontando a questi livelli di prezzo. Se ci fosse invece un'uscita della Grecia, sicuramente avremmo una turbolenza più alta. La possibilità invece che dopo l'elezione greca eventualmente un fronte politico più europeista, che quindi consolidi un mantenimento dello status quo nell'euro, potrebbe fare in parte portare a delle ricoperture e riavvicinare parte del terreno perso nelle ultime settimane. L'Unione Europea è solidale ed è pronta ad aiutare concretamente l'Italia a far fronte alle conseguenze di questa e precedenti catastrofi naturali. Lo ha dichiarato in italiano il presidente della Commissione Europea Barroso, riferendosi alle conseguenze delle scosse di terremoto che hanno duramente colpito nelle ultime settimane la regione dell'Emilia-Romagna. Barroso ne ha parlato in apertura, sempre mercoledì 30 maggio, della conferenza stampa di presentazione delle raccomandazioni economiche dell'Unione Europea. Sentiamolo. Lasciatemi esprimere a nome dell'intero collegio e a nome mio le nostre condoglianze alle vittime del terremoto più recente che ha avuto luogo in Italia il 29 maggio. La Commissione europea è profondamente rattristata ed esprime la sua piena solidarietà ai cittadini italiani. Nell'ambito delle nostre possibilità siamo pronti ad aiutare concretamente l'Italia a far fronte alle conseguenze di queste e delle altre recenti catastrofi naturali. Il commissario europeo alla politica regionale, Johannes Hahn, si renderà nella regione di Emilia-Romagna il domenica 3 giugno. Lo accompagnerà il vicepresidente Antonio Tajani. E ora sentiamo le parole del presidente della BCE, Mario Draghi. Fundamental challenges persist. In my view, these include limiting contagion between member states across the EU. Quelle che stiamo sentendo, dicevamo, sono le parole del presidente della BCE Mario Draghi, che ha parlato giovedì 31 maggio da Bruxelles. Le maggiori sfide per la stabilità del sistema finanziario, ha detto Draghi, sono oggi rappresentate dalla necessità di limitare il contagio fra gli stati membri dell'Unione e promuovere una strategia che sostenga la crescita insieme al consolidamento fiscale. Il tasso di disoccupazione nell'Eurozona è salito all'11% nel mese di aprile. A marzo scorso era del 10,9%, nell'aprile di un anno fa era al 9,9%. Lo ha comunicato Eurostat il 1 giugno. L'istituto ha registrato la perdita di 110.000 posti di lavoro in un mese. Nell'Unione 27 sono 24.667.000 i senza lavoro, con un tasso di disoccupazione al 10,3%. Alla luce di ciò che sta succedendo e con l'attuale struttura, l'Eurozona corre il rischio concreto di disintegrarsi, è il monito che ha lanciato ad Helsinki il commissario europeo Olli Rehn, sottolineando l'importanza di procedere con le riforme. Può quindi ancora ritenersi valida, anche alla luce di questi dati, la linea dura promossa dalla Germania di Angela Merkel, che continua ad essere ferma nel suo no agli eurobond, alla possibilità di stampare moneta? Sebastiano Barisoni l'ha chiesto a Gregorio De Felice, capo economista del gruppo Intesa San Paolo. Sull'eurozona ci stiamo avvicinando al momento della verità, bisogna decidere e rapidamente, perché il mercato si aspetta delle risposte, quale unione monetaria vogliamo avere. Anche Mario Draghi e Ignazio Visco si sono uniti al coro di chi chiede ai governi di dare dei segnali. Continuiamo ad avere un silenzio assordante da parte delle istituzioni europee. Noi viviamo in un mondo che vede la crescita economica rallentare. Quando la torta si restringe bisogna cercare di essere i più competitivi possibili.

come voi sapete, una parte dei partiti, cioè il partito della sinistra radicale Syriza, chiede di rivedere il piano di aiuti e di renderlo più lungo nel tempo, meno quindi severo, quindi di avere un'austerità meno severa che abbia un impatto inferiore in un paese che è già piegato da 5 anni di recessione. Monito della Casa Bianca all'Europa, c'è scetticismo sui passi finora intrapresi per fermare la crisi e per evitare che la stessa peggiori. Per questo l'amministrazione Obama reclama, ma ormai si potrebbe dire pretende, che l'Unione Europea vari adeguate misure per scongiurare il rischio contagio. A poche settimane dal decisivo Consiglio dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea di fine giugno, il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney, attacca. I mercati restano scettici sul fatto che le misure prese fino ad ora siano sufficienti per garantire una ripresa in Europa e per rimuovere il rischio che la crisi si aggraverà. Altri passi devono essere compiuti. Sentiamo su questo Mario Platero, corrispondente da New York del Sole 24 Ore. Credo che sia più uno sviluppo mediatico che non uno sviluppo reale. Sono passati molti anni da Lehman Brothers, l'Europa aveva avuto tutto il tempo per rimettersi in carreggiata, ha scelto una strada diversa, ha scelto la strada dell'austerità invece di scegliere la strada dell'accomodamento monetario e fiscale come hanno fatto gli Stati Uniti, quindi c'è stata una politica divergente. Gli Stati Uniti oggi hanno una crescita così debole, però comunque crescono, comunque riescono ad avere nuova occupazione. Per ciò che riguarda le pressioni americane, quelle ci sono. Secondo me, ieri Jay Carney non ha detto nulla di nuovo, in realtà è stato un normale briefing alla Casa Bianca in cui a una domanda ha semplicemente detto ci aspettiamo che l'Europa faccia di più, un ritornello che ascoltiamo dall'America ormai da molti mesi, lo ascoltiamo anche da fonti più autorevoli di Jay Carney, cioè dal presidente Barack Obama in persona, da numerose audizioni del governatore della Banca Centrale Bernanke e dal segretario al Tesoro Tim Geithner. Non credo che ci sia stata un'alzata di tiro come alcuni giornali italiani, mi sembra peraltro gli unici al mondo, abbiano sottolineato nelle loro edizioni di questa mattina. C'è un ritornello. Perché? Perché torniamo a quel che dicevo prima, l'America preme per una scelta politica da parte europea che prema sull'espansione, che prema sull'accomodamento, cioè è più importante la crescita dell'inflazione, è più importante andare avanti che andare indietro. Su questo, come sappiamo, c'è un dibattito feroce, la Germania è il grande alfiere dell'austerità da sola contro tutti, però direi che è una differenza filosofica di fondo. Secondo me l'Europa dovrebbe in effetti muoversi. Le preoccupazioni americane ci sono giustificate, perché il rallentamento europeo in questo momento sta creando un rallentamento mondiale, ed è questo che poi ha detto Carney, dice da questa crisi europea sta emergendo un problema di economia globale, non soltanto di economia europea. Abbiamo visto in Cina dei dati piuttosto preoccupanti, il PMI al 50,2, che è un dato piuttosto basso, è uscito la settimana scorsa, qualche giorno prima la produzione industriale era diminuita dal 49,3 al 48,2, insomma se anche il locomotore cinese comincia a rallentarsi ci sono preoccupazioni. In America abbiamo visto un tasso di disoccupazione al rialzo dall'8,1 all'8,2%, ma soprattutto abbiamo visto un dato sui nuovi occupati dipendenti di 69.000 nuovi occupati contro i 155.000 attesi. Qualcuno comincia a parlare di recessione, è chiaro che l'America si preoccupa, è chiaro che nelle dichiarazioni di Carney c'è un elemento strumentale di politica interna. Sì. Il 6 novembre ci sarà l'appuntamento elettorale, se l'economia continuerà a peggiorare per Obama, che è già in difficoltà, insomma, le cose potrebbero farsi difficili. E per questa settimana con Economia in Europa è tutto. Economia in Europa. In collaborazione con Euronet.